questa mattina doveva tenersi un convegno nelle sale della provincia, proprio qua a Bologna, un convegno che era stata invitata alla Gelmini, Berlinguer, uno dei ministri precedenti, che aveva avuto l'incarico anni fa di costruire il modello del 32 in Italia, cioè la famosa riforma Zecchino-Berlinguer di trasformazione dell'università. A questo convegno poi di fatto non hanno partecipato né la Gelmini né Berlinguer, entrambi per un grosso timore di essere pubblicamente contestati. Certo che la Gelmini non si presenti in tutta Italia ormai è un dato di fatto segnato da 2 o 3 anni di mobilitazione all'università. Su Berlinguer evidentemente negli scorsi giorni c'è stata anche una serie di campagne in città che andavano ad indicare anche lui come responsabile della crisi dell'università pubblica italiana e di conseguenza andavano a individuare anche lui come obiettivo polemico della giornata. Quindi non c'era né Gelmini né Berlinguer, però c'erano 500 studenti, 500 tra studenti e ricercatori che hanno fatto irruzione nella sala della provincia, sono entrati, hanno interrotto il convegno e hanno utilizzato anche questo spazio di visibilità per prendere parola a partire dai nostri progetti di autoriforma. È evidente che la giornata di mobilitazione di oggi si colloca dentro un percorso di costruzione che arriva alla giornata del 14 a Roma, al corteo che partirà dalla Sapienza appunto il 14 per assediare Montecitorio, ma è anche vero che in quell'occasione, quindi in quella sala, noi abbiamo letto il nostro documento di autoriforma che in qualche modo è il tentativo di una presa di posizione dall'interno del mondo della formazione e della ricerca per alcune proposte concrete che già stiamo portando avanti nei dipartimenti e nelle facoltà per dal basso, dentro una tensione cooperante, rimettere mano al funzionamento della didattica e della ricerca dentro l'università. Ecco, quindi abbiamo letto questo documento di autoriforma e di autoformazione, da lì siamo usciti e pratica, che è stata una pratica forte dell'onda che a Bologna quasi quotidianamente ormai da 3 settimane mettiamo in campo, pratica dei blocchi metropolitani, abbiamo bloccato il traffico del centro e poi dei viali, bloccato 3 porte, insomma ogni corteo e ogni occasione pubblica diventa la possibilità immediata di andare a bloccare la circolazione delle merci, il traffico e di far sentire forte in città la continuità davvero inaspettata di un movimento che è carico e non vede l'ora di arrivare a Roma per cacciare Berlusconi e per affermare chiaramente che tutto il mondo dell'università e della scuola rifiuta il DDL Gelmini.